Stiamo facendo un gioco di società, perché se stiamo facendo un gioco di società io ci sto a giocare. Questa cosa dovrebbe essere approvata entro Natale. Lei, io le faccio adesso il giornalista, sì. Lei ci crede che questa cosa delle province verrà... Ma per carità, no. Allora io la penso come lei e quindi stiamo scherzando. Ma continuando a scherzare, diciamo che avviene questa cosa e per me non avverrà, basti pensare agli emendamenti. Sa, qua ognuno vuole il proprio giardinetto. Avevamo il senatore Fazzone che ne ha presentati 250, sì, appunto, solo lui. Ognuno vuole il proprio giardinetto e man mano che ci avviamo alle elezioni politiche, il giardinetto sarà sempre più ampio, ognuno vuole il suo consenso. Sì. Figuriamoci se passerà questa cosa. Io me lo auguro che passi perché credo che si debba risparmiare in qualche modo in questo paese finalmente. Ma parliamo dei prefetti. Lei mi chiedeva se sì. Il prefetto è una figura veramente indispensabile. Io ritengo di sì, e non perché ho fatto il prefetto e credo di averlo fatto anche discretamente, ma perché se lei pensa che il prefetto è il punto di riferimento di tutte le controversie civili, sociali, e le faccio un esempio, sindacati e datore di lavoro non trovano una linea? Bene, si va dal prefetto e si cerca questa linea, si coordinano le forze dell'ordine che altrimenti non verrebbero a essere coordinate, il prefetto coordina le forze dell'ordine, il prefetto è il responsabile generale dell'ordine e della sicurezza. Perché però quindi per molti italiani viene considerato anche un po', insomma, un grumo di burocrazia, anche di rappresentanza molto ufficiale, molto pomposa anche se vuole. Lei capisce bene che io non ho nessun interesse a difendere una categoria, assolutamente, però leggere su un giornale importante, come ho letto ieri o l'altro ieri, sì, speriamo che si tagli, in modo che si tagliano le sedie ad alti burocrati che non hanno necessità di esistere, fa male perché non è così. Non voglio difendere nessuno, ma le assicuro che il compito del prefetto è fondamentale, perché quando si ha bisogno di un punto di riferimento ci si rivolge al prefetto, ma accanto alle prefetture, se, e quindi questo non significa non tagliamo le prefetture, sì. Certamente armonizziamo meglio, io sono d'accordo con la cancellieri, armonizziamo meglio questa riordiniamo. Cosa, ma tanto non si farà mai.